Capitolo 9. Paura e amore. Per Walter, da solo nel buio, era ancora impossibile dormire. Nella sua breve vita non aveva mai prima di allora dormito da solo. C'erano sempre Jem o Ken vicino a lui, calore e conforto. La piccola stanza divenne appena visibile, con la pallida luce della luna che sbirciava dentro, ma era quasi peggio del buio. L'immagine di un quadro sul muro ai piedi del suo letto sembrava guardarlo in modo beffardo. Le immagini erano sempre diverse se si guardavano al chiaro di luna. Si vedevano cose in esse che mai di giorno apparivano. Le lunghe tende di pizzo sembravano alte donne magre che piangevano una su ciascun lato della finestra e c'erano i rumori della casa, scricchiolii, sospiri, sussurri. E se gli uccelli della carta da parati diventavano vivi e si preparavano a strappargli gli occhi? Oh, una raccapricciante paura improvvisamente prese possesso di Walter. E poi la grande paura di essere esiliato, allontanato da tutti gli altri. La mamma era malata, ci aveva creduto dopo che Opal aveva detto che era vero. Forse la mamma stava morendo, forse la mamma era morta. Non ci sarebbe stata la mamma quando Walter fosse tornato a casa. Walter vide Ingleside senza la mamma e improvvisamente seppe che non poteva resistere un minuto di più. Doveva andare a casa, immediatamente, subito. Doveva vedere la mamma prima che lei fosse morta. Questo era quello che zia Mary intendeva. Lei sapeva che la mamma stava per morire. Era inutile pensare di svegliare qualcuno e chiedere di essere portato a casa. Non l'avrebbero portato. Avrebbero solo riso di lui. La strada per casa era terribilmente lunga, ma lui avrebbe camminato tutta la notte. Piano piano scivolò fuori dal letto e indossò i suoi vestiti. Prese le scarpe in mano. Non sapeva dove Mrs. Parker avesse messo il cappello, ma quello non era importante. Non doveva fare rumore, doveva solo scappare e arrivare dalla mamma. Oh, era dispiaciuto di non poter salutare Alice. Lei avrebbe capito. Attraversò la buia sala. Giù per le scale, passo dopo passo, trattenne il respiro. Non aveva fine quella scala. I mobili stavano ascoltando. Oh! Walter aveva lasciato cadere una delle sue scarpe. Giù per le scale che rumorosamente, urtando da gradino in gradino, saltò dall'altra parte del corridoio e finì contro la porta d'ingresso con quello che sembrò a Walter un fragore assordante. Walter si rannicchiò in preda alla disperazione contro il parapetto. Tutti devono aver sentito il rumore. Sarebbero arrivati di corsa, non lo avrebbero lasciato andare a casa. Un singhiozzo di disperazione soffocò in gola. Sembravano passate ore prima di osare credere che nessuno si era svegliato, prima di osare riprendere il suo attento passaggio giù per le scale, ma alla fine ce la fece. Ritrovata la sua scarpa, con cautela girò la maniglia della porta d'ingresso. Le porte non erano mai state bloccate dove abitano i Parker. Mrs. Parker aveva detto di non avere nulla da rubare, tranne i bambini che nessuno voleva. Walter era fuori. La porta si chiuse dietro di lui. Si infilò le scarpe e furtivamente andò giù per la via. La casa era ai margini del villaggio e fu ben presto sulla strada. Un momento di panico lo sopraffece. La paura di essere catturato e che gli fosse impedito di andare a casa era passata. Ora tutte le sue vecchie paure del buio e della solitudine ritornarono. Non era mai stato da solo nella notte prima. Aveva paura del mondo intero. Era un mondo enorme. E lui era così terribilmente piccolo. Anche il vento freddo che stava arrivando da est sembrava soffiargli in faccia come a volerlo spingere indietro. Ma niente, la mamma stava per morire. Walter deglutì e girò il suo volto verso casa. Senza fermarsi, andò, combattendo la paura da piccolo prode. C'era il chiaro di luna. Il chiaro di luna ti permette di vedere le cose. Ma nulla sembrava familiare. Una volta, quando era stato fuori con papà, aveva pensato di non aver mai visto niente di così bello come una strada illuminata dalla luna, attraversata dalle ombre degli alberi, ma ora le ombre erano così nere e taglienti che potevano volarti addosso. I campi avevano indossato stranezze, gli alberi non erano più amichevoli, sembrava che lo stessero guardando, ammassati davanti e dietro a lui, Due occhi di fuoco lo guardarono dal fossato e un gatto nero di dimensioni incredibili corse dall'altra parte della strada. Era un gatto? Oh, la notte era fredda. Lui tremava nella sua sottile camicetta, ma non gli sarebbe interessato il freddo se solo avesse potuto smettere di avere paura di tutto, delle ombre, dei suoni furtivi, delle cose senza nome che potevano aggirarsi nelle strisce di bosco che attraversava. Si chiedeva come sarebbe stato non aver paura di nulla come Jem. Io giusto mi limiterò a far finta di non aver paura, disse ad alta voce. E poi un brivido di terrore per il suono della propria voce che si perdeva nell'immensità della notte. Ma andava avanti, sì, doveva andare avanti, quando la mamma stava per morire. Una volta cadde malamente, si contuse e scorticò il ginocchio su un sasso. Una volta che aveva sentito un passeggio arrivare dietro di lui, si nascose dietro un albero finché non passò, per il terrore che il dottor Parker avesse scoperto che se n'era andato e veniva a cercarlo. Una volta si fermò, terrorizzato da qualcosa di nero impellicciato che sedeva sul ciglio della strada. Non riusciva a passare, non poteva, ma lo aveva fatto invece. Era un grosso cane nero. Era un cane. Ma era passato. Non osava correre per paura che lo inseguisse. Aveva rubato uno sguardo furtivo, disperato, al di sopra della spalla. Vide che si era alzato e, con andatura normale, se ne andava in direzione opposta. Walter passò la sua piccola mano bruna sul viso e lo trovò tutto bagnato di sudore. Era caduta una stella nel cielo davanti a lui, spargendo scintille fiammanti. Walter ricordava di aver sentito la vecchia zia Kitty dire che quando cade una stella qualcuno muore. Oh no, era la mamma! Aveva appena avuto la sensazione che le gambe non lo avrebbero portato un altro passo avanti, ma quel pensiero riprese a marciare di nuovo. Era così freddo ora che aveva quasi smesso di avere paura. Non arrivava mai a casa. Dovevano essere ore e ore da quando aveva lasciato Low Bridge. Erano 3 ore. Era scappato dalla casa dei Parker alle 11 ed ora erano le 2 di notte. Quando Walter si trovò sulla strada che metteva giù al Glen, diede un singhiozzo di sollievo. Ma come percorse con passo incerto il villaggio e le case addormentate, esse sembravano così lontane. Si erano dimenticati di lui. Una mucca improvvisamente muggì contro di lui da un recinto e Walter si ricordò che Mr. Joe Rees teneva un toro selvaggio e si mise a correre, preso da un attacco di panico, su per la collina per arrivare al cancello di Ingleside. Era a casa! Oh, era a casa sua! Poi si fermò tremante, sopraffatto da un terribile senso di desolazione. Si era aspettato di vedere le calde, accoglienti luci di casa, ma non c'era una luce a Ingleside. Una luce c'era, se avesse potuto vederla, in una camera da letto posteriore, dove l'infermiera dormiva con il cesto per neonati accanto al suo letto. Ma praticamente Ingleside era buia come una casa deserta e lo spirito di Walter fu sconfitto. Non aveva mai visto, nemmeno immaginato Ingleside buia di notte. Significava che la mamma era morta. Walter barcollando lungo il viale, lungo la cupa ombra nera della casa, sul prato verso la porta d'ingresso. Era bloccata la porta. Diede un debole colpo, non poteva raggiungere il battacchio, ma non vi fu alcuna risposta e nemmeno se ne aspettava una. Lui ascoltava, non c'era alcun suono di vita in casa. Sapeva che la mamma era morta e tutti erano andati via. Era ormai troppo freddo ed esausto per piangere, ma strisciò intorno alla stalla e salì la scala per il fienile. Ormai non era nemmeno più spaventato. Voleva solo ripararsi da quel vento e sdraiarsi fino al mattino. Forse qualcuno sarebbe tornato poi, dopo aver seppellito la mamma. Un gattino tigrato, dal pelo lucido che qualcuno aveva dato al dottore, gli faceva le fusa, piacevolmente profumato di fieno di trifoglio. Walter lo stringeva volentieri, era caldo e vivo, ma sentiva i topolini e non rimase, corse sul pavimento. La luna lo guardò attraverso la finestra di ragnatele. ma non vi era alcun conforto in quella lontana, fredda, antipatica luna. Una luce accesa in una casa, Glenn, era più simile a un amico. Fintanto quella luce brillava, riusciva a farsi coraggio. Non riusciva a dormire. Il ginocchio faceva troppo male e aveva freddo, con una strana sensazione allo stomaco. Forse stava per morire anche lui. Oh, lo sperava. Tanto tutti gli altri erano morti o andati via. Ma le notti non finiscono mai. Altre notti prima si erano sempre concluse, ma forse questa non sarebbe mai finita. E si ricordò di una terribile storia che aveva sentito sul capitano Jack Flagg di Harbormouth, che aveva detto che non avrebbe permesso il sorgere del sole alcune mattine quando era veramente arrabbiato. Forse il capitano Jack adesso era davvero arrabbiato. Poi a Glenn la luce si spense e lui non poté sopportarlo. Ma il piccolo grido di disperazione lasciò le sue labbra quando si accorse che era giorno. Capitolo 10. Una bella famiglia. Walter scese la scaletta e uscì. Ingleside era coperta da una strana luce senza tempo. Era la sua prima alba. Il cielo sopra le betulle nella conca mostrava un vago splendore argenteo rosa. Forse poteva entrare dalla porta laterale. Susan talvolta la lasciava aperta per il papà. La porta laterale era sbloccata. Con un singhiozzo di gratitudine, Walter scivolò nella sala. Era ancora buio in casa e iniziò a salire le scale in silenzio. Sarebbe andato a letto, proprio a letto. E se nessuno fosse mai più tornato, lui poteva anche morire lì e andare in paradiso e trovare la mamma. Solo, Walter, ricordando quello che aveva detto Opal, il paradiso era a milioni di miglia di distanza e quella nuova ondata di desolazione lo investì e Walter si dimenticò di guardare dove camminava. Mise pesantemente il piede sulla coda di Gamberetto che dormiva nella curva delle scale. Il miagolio di dolore di Gamberetto risuonò per tutta la casa. Susan si era appena addormentata e fu risucchiata fuori dal sonno da quell'orribile suono. Susan era andata a letto a mezzanotte, piuttosto esausta, dopo un pesante pomeriggio e un'altrettanto pesante serata a cui la zia Mary Blight aveva contribuito mettendole una spina nel fianco proprio quando la tensione era più alta. Doveva avere una borsa dell'acqua calda e un massaggio con pomata e finito un panno bagnato sugli occhi perché uno dei suoi mal di testa era arrivato. Susan si era svegliata alle 3 con la sensazione molto strana che qualcuno avesse estremamente bisogno di lei. Si era alzata e in punta di piedi lungo il corridoio era andata verso la porta della stanza della signora Blight. Tutto era silenzioso lì. Sentiva il respiro calmo e regolare di Anna. Susan fece il giro della casa e tornò a letto, convinta che quella strana sensazione fossero solo i postumi di un incubo. Ma per il resto della sua vita Susan fu convinta di aver avuto quello che aveva sempre deriso e che Abby Flagg, che parlava di spiritismo, chiamava un'esperienza curativa. Walter mi chiamava e io l'ho sentito, affermava. Susan si alzò e di nuovo andò, pensando che Ingleside quella notte fosse veramente posseduta dagli spiriti. Era vestita solo con una camicia di flanella che si era ridotta per i ripetuti lavaggi finché non era arrivata ben al di sopra delle sue ossute caviglie. Ma quella vecchia camicia da notte sembrò la cosa più bella del mondo al visetto pallido, alla tremante piccola creatura dai grandi occhi grigi spaventati che la fissavano dal pianerottolo. Walter Blythe! Due passi e Susan lo aveva tra le braccia, le sue forti, dolci braccia. Susan, è morta la mamma! Disse Walter. In un istante era tutto completamente cambiato. Walter era a letto, al caldo, nutrito, confortato. Susan aveva rapidamente acceso il fuoco, dato una tazza di latte caldo e una fetta di pane dorato e un grande piatto dei suoi biscotti preferiti, e quindi aveva messo al sicuro con una borsa dell'acqua calda sui piedi. Lo aveva accarezzato e aveva medicato e unto la contusione sul ginocchio. Era una bella sensazione sapere che qualcuno si prendeva di nuovo cura di te, che qualcuno ti voleva, che eri importante per qualcuno. E tu? Sei sicura, Susan, che la mamma non è morta? Oh no, tua madre è profondamente addormentata, sana e felice, tesoro mio. E non era malata, per niente. Opa, l'ha detto. Beh, tesoro, non si sentiva molto bene un po' ieri, ma questo è tutto. E lei non è mai stata in pericolo di morte. Basta che aspetti fino a dopo aver fatto un bel sonno e poi la vedrai. E vedrai anche qualcos'altro. Se avessi tra le mani quei piccoli satanassi di Lowbridge, non riesco a credere che tu hai camminato da Lowbridge fin qua. 6 miglia in una notte. Ho sofferto un'agonia terribile con la mente, Susan, disse Walter gravemente. Ma tutto era finito. Era sicuro, felice ed era a casa. Egli era a casa. E si addormentò. Era quasi mezzogiorno. Prima che lui si svegliasse e vedesse la luce del sole inondare la stanza attraverso le proprie finestre. Zoppicando andò a vedere la mamma e cominciava a pensare che era stato molto sciocco. Forse la mamma non sarebbe stata soddisfatta di lui perché era scappato da Lowbridge. Ma la mamma gli mise solo un braccio intorno alle spalle e lo attirò vicino a sé. Aveva sentito tutta la storia da Susan e aveva pensato a un paio di cose che aveva intenzione di dire a Jane Parker. Oh mamma, tu non morirai e tu mi ami ancora, non è vero? Tesoro, non ho idea di morire e io ti amo così tanto da far male. Pensare che hai percorso tutta la strada a piedi da Lowbridge nella notte. E a stomaco vuoto, rabbrividì Susan. La meraviglia è che sia ancora vivo per raccontarlo. I giorni dei miracoli non sono passati del tutto e questo è sicuro. Un coraggioso ragazzino, rise papà, che era arrivato con Shirley sulla sua spalla. Accarezzò la testa di Walter e Walter prese la mano e la strinse. Non c'era nessuno come papà al mondo. Ma nessuno mai doveva sapere quanta paura aveva davvero avuto. Non ho più bisogno di andare lontano da casa, mamma. No, amore, fino a quando non lo vorrai tu, promise la mamma. Oh, io non vorrò mai, mai, mai. Cominciò Walter. E poi si fermò. Dopotutto, non gli sarebbe dispiaciuto vedere di nuovo Alice. Guarda qui, tesoro, disse Susan, facendo entrare una rosea giovane piccola creatura nel grembiule bianco e berrettino che portava nel cesto. Walter guardò. Una bambina! Una paffuta, corta, grassoccia bambina con setosi riccioli umidi in tutta la testa e minuscole manine graziose. Non è una bellezza, disse Susan con orgoglio. E guardate le ciglia. Non ho mai visto delle ciglia così lunghe su una bambina. E le sue piccole orecchie sono così belle. Ho sempre guardato prima di ogni altra cosa le orecchie. Walter esitò. È dolce, Susan. Oh, guarda le sue piccole dita arricciate, ma non è piuttosto piccola. Susan rise. 8 libbre. Non è piccola, tesoro. E ha già cominciato a guardarsi attorno. Quella bambina non era passata un'ora ancora dalla nascita che alzò la testa e guardò il dottore. Non ho mai visto una cosa del genere in tutta la mia vita. Avrai capelli rossi, disse il dottore con un tono di soddisfazione. Amabili capelli rosso oro come la sua mamma. E gli occhi color nocciola come suo padre, disse la signora dottora con giubilo. Non vedo perché uno di noi non può avere capelli biondi, disse Walter con aria sognante, pensando ad Alice. Capelli biondi come i Drew? Disse Susan con smisurato disprezzo. Oh, lei appare così graziosa quando è addormentata, canticchiava l'infermiera. Non ho mai visto un bimbo che serra i suoi occhi così quando si addormenta. Oh, è un miracolo. Tutti i nostri bambini sono dolci, Gilbert, ma lei è la più dolce di tutti. Benedetto il Signore, disse zia Mary arricciando il naso. Ci sono stati alcuni bambini al mondo prima di loro, tu lo sai, Annie. La nostra bambina non è mai stata al mondo prima, zia Mary, disse Walter con orgoglio. Susan, posso baciarla solo una volta, per favore? Ma certo che puoi, disse Susan. Ovviamente dopo che zia Mary se ne fu andata. E ora vado giù a fare una torta di ciliegie per la cena. La zia Mary ne ha fatta una ieri pomeriggio, ma dovrebbe vederla, cara signora dottora. Sembra qualcosa che il gatto ha portato fuori. Io Voglio mangiarne il più possibile piuttosto che gettarla tra i rifiuti. Una torta del genere non era mai stata presentata al dottore prima. Finché io ho la mia salute e la mia forza, e questo è sicuro. Oh, non è che tutti possono avere la tua abilità con la pasta sfoglia, si sa, dichiarò Anna. Mamma, disse Walter con la porta chiusa, dietro a una gratificata Susan. Penso che siamo una bella famiglia, non è vero? Una bella famiglia. Anna rifletté allegramente mentre si distendeva nel suo letto con la bambina accanto. Presto sarebbe stata di nuovo tra loro, agile come una volta, amandoli, insegnando loro e confortandoli. Sarebbero tornati da lei con le loro piccole gioie e dolori, le loro germoglianti speranze, le loro nuove paure, i loro problemi che sembravano sempre così grandi per loro e le loro piccole pene d'amore. Che sembravano così amare. Avrebbe tenuto tutti i fili della vita di Ingleside di nuovo tra le sue mani, come un meraviglioso arazzo di bellezza da tessere. E zia Mary non avrebbe avuto alcuna ragione per dire, come Anna aveva sentito 2 giorni prima: "Hai l'aria terribilmente stanca, Gilbert. Possibile che non interessi a nessuno?" Al piano di sotto zia Mary stava scuotendo la testa con aria avvilita dicendo: "Le gambe di tutti i neonati sono storte, lo so, ma Susan, le gambe della bambina sono troppo storte. Naturalmente non dobbiamo dire niente alla povera Annie, assicurati di non farne menzione con Annie, Susan." Susan, per una volta, rimase senza parole.